La volpe e la cicogna, da Favole di Jean de La Fontaine, tradotto da Emilio De Marchi, registrato per LibriVox.org da Paolo Fedi, luglio 2007, Roma. Monna Volpe un bel dì fece lo spicco e invitò la cicogna a desinare. Il pranzo fu modesto e poco ricco, anzi, quasi non c'era da mangiare. Tutto il servizio in ultimo costrutto si ridusse a una broda trasparente servita in un piattello. Or capirete se, in grazia di quel becco che sapete, la cicogna poter mangiar niente. Ma la volpe in un amen spazzò tutto. Per trar vendetta dell'inganno, anch'essa la cicogna invitò la furba amica, che non stette con lei sui complimenti. La volpe, a cui non manca l'appetito, andò pronta all'invito. Vide e lodò il pranzetto preparato, tagliato a pezzi in una salsa spessa, che mandava un odore delicato. Ma il pranzo fu servito, per dispetto, in fondo a un vaso a collo lungo e stretto. Ben vi attingea col becco la cicogna per entro la fessura, ma non così Madonna Gabbamondo, per via del muso tondo e non ridotto dell'anfora alla piccola misura. A pancia vuota e piena di vergogna se ne partì quell'animale ghiotto, mogio mogio, la coda fra le gambe, come una vecchia volpe malandrina che si senta rapir da una gallina. Vuol dimostrare questa favoletta che chi la fa l'aspetta. Fine della favola La volpe e la cicogna. Questa registrazione è di dominio pubblico.